Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Sulla vita di ogni essere umano si può scrivere un racconto, fare un film, scrivere una canzone. Le vite sono interessanti, noi cercheremo di raccontare vite ancora più interessanti e spettacolari, magari vite di persone normali che a un certo punto hanno saputo dare un colpo d'ala, una sterzata, volare in alto lasciando cose che hanno lasciato un segno. Oppure vite di persone eccezionali di cui crediamo di conoscere tutto e invece in realtà non sappiamo esattamente quali sono stati i meccanismi che hanno portato qualcuno a fare qualcosa di superiore o comunque di diverso. Quella di oggi è una storia particolare, abbiamo voluto partire con una storia al femminile. È la storia di una donna e della sua bicicletta. Provate a immaginare questa storia e questa donna in un paesino della Bassa Emiliana. Siamo nei primi anni del 1900, quando le donne normalmente facevano le mogli, stavano a casa. Se per caso lavoravano, tutto al più facevano le sarte oppure aiutavano in campagna. Questa è una storia di bicicletta, eppure la bicicletta allora era una cosa da uomini. Per le donne si usava solo tenendo le gambe di lato, magari per fare qualche fotografia che ne ingentilisse il tratto. Ecco, qui parliamo veramente di una cosa diversa. Parliamo di Alfonsina Morini, che diventerà Alfonsina Strada, ma di questo parleremo dopo. La prima donna che si è distinta a livello sportivo in una disciplina che allora era assolutamente riservata agli uomini, il ciclismo. Emilia sognante, fra l'oggi e il domani, dicevo motore, il lusso a valere, Emilia di faccia, di grida, di mani, sarà un grande piacere vedere in futuro da un mondo lontano, qua giù sulla terra una macchia di verde, e sentire il mio cuore che battendo più piano là dentro si perde. Alfonsina Rosa Maria Morini nasce a Riolo di Castelfranco Emilia il 16 marzo 1891 a Riete. Tutti la chiamano Alfonsina, anche se il suo vero nome sarebbe Alfonsa. La sua è una famiglia numerosa e i soldi non sono molti. Lei è la seconda di 10 fratelli e la sua vita sembrerebbe già incanalata come quella di tante altre ragazze del suo tempo. Fare la sarta, andare a servizio in qualche famiglia. Siamo in un'epoca in cui il ruolo della donna è quello di persona subordinata all'uomo, moglie, madre, poco altro. Ricordiamoci che il suffragio e il diritto delle donne al voto arriveranno solo tra molti anni, nel secondo dopoguerra. Ma capita un fatto inaspettato nella vita di Alfonsa Rosa Maria, nella vita di Alfonsina. L'episodio è raccontato in un libro molto bello scritto da Paolo Facchinetti, Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada. Una domenica, siamo nel 1901, succede una cosa straordinaria. Papà Carlo arriva a casa pedalando su una vecchia bicicletta. L'ha avuta dal dottore del paese in cambio di poche galline e qualche lavoretto nell'orto. È il giorno che cambia la vita di Fonsina. Ha imparato a cucire e ricamare. Va a fare qualche servizio nelle case dei più benestanti del paese, ma i suoi pensieri sono tutti raggrumati intorno a quella bicicletta. Non ha mai avuto una bambola, un giocattolo, un motivo per sentirsi felice e sognare. Al massimo ha giocato a nascondino, al girotondo. Adesso c'è, incredibile miraggio, quella macchina fantastica. E con quella macchina fantastica è un amore a prima vista, è un colpo di fulmine che cambia per sempre la sua vita. Alfonsina ha solo 10 anni, ma la visione di quell'oggetto stupendo le fa capire subito quello che vuole fare. Lei vuole fare la ciclista professionista. Non ci mette molto a montarla e a domarla, a trovare l'equilibrio. A stento arriva a poggiare la punta dei piedi sui pedali, ma va per i sentieri, fra i campi di bietole e di cavoli, fra i viottoli che tagliano i pioppeti. Quella bicicletta significa libertà di andare più lontano, dove a piedi non è mai arrivata. Appena può, la sottrae al padre e si inebria. Fonsina è piccola, nervosa, ma robusta. E pedalare non la stanca, anzi, è posseduta dalla voglia di andare sempre più veloce. Alfonsina Strada inizia a correre con regolarità. Inizia a allenarsi come e più dei maschi. Naturalmente lo fa di nascosto dai suoi genitori perché, come abbiamo già detto, il ciclismo non è uno sport per donne. Così lei a casa dice che va alla messa della domenica e invece va a allenarsi, pedala e rinforza i suoi muscoli, tanto da sentirsi pronta per affrontare le prime gare. A questo punto però la madre la scopre e le dice chiaro e tondo che se vuole continuare a correre deve uscire di casa, e quindi per uscire di casa in quegli anni bisogna trovarsi un marito, e a quel punto lei potrà non dovere più rendere conto a nessuno di quello che fa. Certo, Alfonsina ha solo 14 anni, ma quelli sono anni in cui ci si può anche sposare molto giovani, soprattutto se si è caparbi e testardi come lei. E quindi lei prende questa decisione così difficile, definitiva in quegli anni e impegnativa. Si sposa con Luigi Strada, che le dà il cognome che la farà diventare famosa, ma soprattutto che fa il meccanico, e viene quasi costretto, anche se lo fa di buon grado, a diventare il suo manager, perché lui è il suo primo sostenitore. Tanto è vero che Alfonsina diventa finalmente una donna felice, perché può inseguire la sua passione senza doversi preoccupare del giudizio degli altri. Anche in quegli anni poveri, comunque, un regalo di nozze te lo devono fare. E lei ovviamente chiede come regalo di nozze una bicicletta. E molti anni dopo, con lei che viene considerata la sua erede naturale, Maria Canins, ci racconta un episodio analogo. Io non ebbi mai una bicicletta mia finché non mi sposai, perché come regalo di nozze mi diedero una bella bicicletta da corsa. Dal bere c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la nostra storia d'esordio, una storia al femminile, la storia di Alfonsina Strada, la donna che per primo riuscì ad affrontare la bicicletta con temperamento sportivo, sfidando gli uomini in anni in cui per le donne non era facile confrontarsi con i maschi. Ma torniamo a dove eravamo rimasti. Lei inizia a fare delle prime gare, ma per quello che lei vuole realizzare non va bene la bassa padana, perché i tempi non sono assolutamente ancora maturi. Bisogna andare a Torino. Torino è la culla del ciclismo professionista italiano, è una città di vedute molto più ampie, e lì le donne su due ruote non sono motivo di scandalo. A Torino, per esempio, nasce l'Unione Velocipedistica Italiana, che diventerà la moderna federazione ciclistica. Anche perché nel resto dell'Italia il rapporto tra le donne e la bicicletta non ha nulla a che vedere con lo sport, è un mezzo di locomozione. forse nell'immaginario collettivo è un modo per sedurre e per farsi notare. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore? Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridano tutti i corridoi. Alfonsina si trova a Torino e qui inizia a farsi conoscere come ciclista. In quegli anni c'è una campionessa, si chiama Giuseppina Carignano, un cognome palesemente piemontese. Bene, Alfonsina la sfida e riesce a batterla, guadagnandosi il titolo di migliore ciclista italiano. E a questo punto le si apre un orizzonte impensabile per la ragazza povera partita dall'Emilia, perché comincia a viaggiare, diventa famosa e l'amore per la bicicletta le apre un mondo che mai avrebbe pensato di conoscere fino a pochi anni prima. Per esempio va a San Pietroburgo e partecipa al Grand Prix, dove riceve la medaglia da un Nicola II, zar, che ancora non poteva presagire quali terribili scherzi gli avrebbe combinato il destino di lì a poco. Siamo nel 1911, che è un anno fondamentale nella vita di Alfonsina, perché diventa la donna più veloce del mondo. Riesce a strappare a Louis Roget, una francese, il titolo di donna che riesce a stabilire la punta massima di velocità. Era un primato che resisteva da più di 8 anni. Bene, sulla pista di Moncalieri, vedi, ancora in Piemonte, lei stabilisce il nuovo record mondiale. Raggiunge una velocità di 37 km orari. Non sembrano molti 37 km, ma bisogna pensare al tipo di biciclette sulle quali si viaggiava in quegli anni. Io ho visto al Museo di Novi Ligure, il museo dei campionissimi del ciclismo, peraltro un museo bellissimo che vi consiglio di visitare. Bene, io lì ho visto la bicicletta di Alfonsina Strada. Era una bicicletta pesantissima, assolutamente inadatta a correre. Un ciclista di oggi si rifiuterebbe di fare poche centinaia di metri con una bicicletta del genere. Bene, lei su quella bicicletta riesce comunque, e su quelle strade, riesce a superare i 37 km orari. Questo permette ad Alfonsina di farsi notare dalla stampa sportiva. Tutta l'Italia sta parlando di lei, sta nascendo un caso, ma nel frattempo infuria la grande guerra. Bene, lei in quei periodi così difficili ha l'ardire di recarsi alla redazione della Gazzetta dello Sport e si vuole iscrivere al Giro di Lombardia. È una cosa mai vista prima. Il regolamento non lo vieta, ma non lo vieta perché non ha mai preso in considerazione una eventualità del genere. Per sua fortuna, per fortuna di Alfonsina, la Gazzetta in quegli anni è diretta da Armando Cugnet, che è un uomo fortemente legato alla passione sportiva, fortemente legato al ciclismo e comunque un uomo di larghe vedute. Così il 4 novembre del 1917, un anno prima esattamente della vittoria nella Prima Guerra Mondiale, parte da Milano il Giro di Lombardia. I partenti sono 43 uomini e una donna, Alfonsina Strada. Ricordiamoci che tra i partenti ci sono Gaetano Belloni e Costante Girardengo, quindi è una corsa molto importante. Stiamo parlando di 204 chilometri su una strada, come potete immaginare, di sterrato e assolutamente inadatta a corrersi già per un uomo, figuriamoci per una donna. Bene, Alfonsina arriva ultima, ma arriva ultima di quelli che riescono a finire, perché una ventina di corridori, uomini, non riescono a terminare la corsa. È la sua prima grande vittoria, è il suo primo confronto con i colleghi maschi in un periodo in cui il ciclismo è molto prodigo di storie assolutamente epiche e leggendarie come questa. Till you come back home. Il falco e il gabbiano. Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore la distanza già cresce e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante. La presenza di Alfonsina sulle strade a fianco di grandi ciclisti uomini fa discutere, l'opinione pubblica si divide, perché lei certamente è un atleta forte, ma per quei tempi andare a cavalcioni con i pantaloncini, le gambe scoperte fa scandalo e fa anche nascere una serie di illazioni non simpaticissime, prima tra queste il sospetto che lei non ci sia tanto con la testa, tanto è vero che fioccano i soprannomi, la chiamano la matta, la regina della pedivella o addirittura il diavolo in bicicletta. Ma lei persevera, lei continua a correre perché ha in testa un obiettivo molto chiaro: partecipare alla corsa più importante, il Giro d'Italia. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco e il Gabbiano. Qualcuno si chiederà perché Enrico Ruggeri ha voglia di parlare e di raccontare. Beh, perché ci sono storie che vanno raccontate, storie che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi, storie che fanno emergere il lato di alcuni personaggi che magari crediamo di conoscere e invece non ne sappiamo molto, e soprattutto ci sono persone comuni che hanno saputo scrivere cose particolari volando in alto, come il falco e il gabbiano, tanto per citarsi un attimo. Stiamo parlando per esempio oggi di Alfonsina Strada, perché abbiamo voluto partire raccontando la storia di una donna fuori dal comune, una donna che all'inizio del secolo ha la passione per la bicicletta, ma non ne vuole fare un vezzoso oggetto di seduzione, vuole farne il suo oggetto di lavoro, al punto che decide di sfidare gli uomini. Alfonsina Strada vuole correre il Giro d'Italia e vuole battersi con i maschi. In questa storia siamo arrivati al 1924. Il Giro d'Italia sta vivendo un anno di crisi, perché i ciclisti stanno diventando delle grandi star e quindi le squadre più prestigiose chiedono un compenso in denaro per la partecipazione. Gli organizzatori si rifiutano scandalizzati e quindi le grandi squadre e le grandi stelle di quel ciclismo nascente ma già epico disertano. Mancano i grandi nomi, manca Girardengo, manca Brunero, manca Bottecchia. Non a caso il giro verrà vinto da un carneade che si chiama Giuseppe Enrici. Il giro rischia quindi di essere un flop dal punto di vista promozionale e del richiamo nei confronti della gente. Ci vuole una novità per attirare l'attenzione del pubblico. Forse è per questo che tra gli organizzatori qualcuno pensa che inserire tra i partecipanti una donna potrebbe essere una buona idea. Non tutti sono d'accordo, ma alla fine conviene che una donna faccia parlare di questo giro così a rischio. A 3 giorni dalla partenza, la Gazzetta dello Sport pubblica l'elenco dei ciclisti in gara. Tra di loro c'è anche un certo Alfonsin Strada di Milano. Non sapremo mai se quella A mancante è un errore tipografico o una precisa volontà di non esporsi ancora al pensiero che una donna potrebbe partecipare al Giro d'Italia. Il Giro d'Italia in quegli anni è una prova estremamente impegnativa dal punto di vista fisico, lo è anche oggi, ma bisogna considerare, come abbiamo più volte ricordato, il tipo di strade in cui si correva il Giro d'Italia e il tipo di biciclette che servivano ai nostri eroi. Per cui i corridori che non riescono a terminare la estenuante gara sono parecchi, vuoi per incidenti meccanici, vuoi proprio perché non ce la fanno fisicamente, anche perché le tappe sono soltanto 12, con le quali si devono percorrere ben 3613 chilometri. Fate voi i conti per quanti chilometri servano per una tappa. Risottolineiamo anche il fatto che siamo nel 1924 e le biciclette sono quello che sono, difficili da portare. Alfonsina fa molta fatica a reggere il confronto con i colleghi maschi, ma riesce comunque a concludere tutte le tappe anche se arriva ultima. Per strada diventa un personaggio, catalizza l'attenzione, la gente si affolla per poterla andare a vedere, sia dal punto di vista positivo che negativo, perché c'è chi la critica, c'è chi la insulta apertamente, ma c'è invece chi le chiede un autografo e lei, come una star nascente, si concede e spesso si ferma per firmare qualche cartolina. I giri di quegli anni non si svolgono sul filo dei secondi. Il Guerin Sportivo, che è un settimanale di critica e di satira, racconta il giro del 1924 e l'epopea di Alfonsina Strada così. Quando in una corsa del genere di quella che si sta svolgendo attualmente lungo le strade nazionali si fa luce un corridore che ha un paio di gambe perfette, un corpo flessuoso e nervoso, i capelli tagliati alla bebè, una dentatura bianca e luccicante, un viso grazioso, e questo corridore è una donna, va da sé che si arrivi a desiderare che le 12 tappe diventino 24. Quindi, come vedete, un pochino di pruderie, un pochino di compiacimento nei confronti di una presenza femminile, diciamo giudizi non prettamente tecnici, ma che comunque sono importanti, perché Alfonsina Strada diventa il personaggio più importante dell'edizione di quel giro. Diventa in realtà un esempio per le generazioni future del ciclismo femminile. Sentiamo per esempio cosa dice di lei Elena Cecchini, che è la campionessa italiana del 2014 della categoria Elite. Sicuramente il nome di Alfonsina è un nome comune a tutte noi che comunque pratichiamo, chi per sport, chi per lavoro, il ciclismo. E c'è stata anche una squadra ciclistica che fino a 2 anni fa appunto portava il nome di Alfonsina Strada, quindi per un motivo o per l'altro la conosciamo bene. E l'aspetto comunque sicuramente importante di questa persona, di questa campionessa, è il fatto che rappresenta un pioniere per il ciclismo femminile, ed è più del solito attuale in questi anni in cui comunque noi ragazze stiamo cercando proprio a livello mondiale di far crescere questo sport e di eguagliarlo a quello maschile. Ecco, sicuramente per noi, cioè, ci sarebbe bisogno di una persona come lei adesso nel gruppo, perché comunque lei ha avuto un coraggio anormale e ha avuto appunto il coraggio di mettersi a confronto anche con i ragazzi e di farsi valere per fare quello che amava fare. Di conseguenza questo è l'aspetto che noi dobbiamo prendere in considerazione ed esempio per al giorno d'oggi. Ecco, teniamo conto che Elena Cecchini è una ragazza di 22 anni, quindi è bello sapere che una ragazza di 22 anni ricorda perfettamente la storia di Alfonsina Strada e ancora oggi, a un secolo di distanza, la tiene in considerazione come un esempio per tutte le giovani sportive, perché in realtà il confronto tra sport maschile e femminile in tutte le discipline è sempre molto sentito. C'è questa voglia legittima e inevitabile da parte delle donne di affermare la loro individualità e di essere abilitate a combattere gare sportive esattamente con la stessa dignità dei loro colleghi maschi. Ma sentiamo ancora Elena Cecchini. Diciamo che dai 19 anni in poi noi ragazze dobbiamo appunto decidere se fare di questo sport un lavoro oppure, tra virgolette, smettere di praticarlo a livello agonistico, perché comunque si passa nella categoria maggiore, non c'è una categoria intermedia, quindi il salto è subito grande. Di conseguenza chi decide di praticarlo proprio come lavoro deve assolutamente fare una vita da sportivo a 360 gradi, che sta appunto nel svegliarsi al mattino e dopo colazione partire, fare anche 4-5 ore in bicicletta per poi appunto tornare e riposare oppure fare altre attività come può essere la palestra, come può essere di nuovo della bici. Quindi comunque uno sport molto molto faticoso, molto impegnativo, e in particolare appunto per noi ragazze che comunque di natura non siamo portate fisicamente per fare gli stessi sforzi rispetto ai ragazzi, invece in questo caso i nostri sforzi sono proprio identici, quindi è uno sport molto duro. Beh, è importante che Elena Cecchini sottolinei quanto lo sport sia sacrificio, quanto sia fatica. Solo se ti sai sacrificare tanto, poi puoi anche divertirti. I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is ad un certo punto della gara c'è però una svolta inaspettata. Alfonsina viene esclusa dalla classifica del giro perché arriva fuori tempo massimo in un maxi tappone di montagna dall'Aquila a Perugia, una distanza impensabile nel ciclismo di oggi. Sicuramente questa esclusione è una scusa per porre fine alla continua e imbarazzante sfida con i colleghi maschi. È un argomento ancora troppo scomodo per l'epoca, anche perché nel frattempo i ciclisti partiti da Milano sono 90 e cominciano a ritirarsi a uno molti maschi, solo 30 completeranno la corsa. Però l'impatto mediatico è così forte che comunque le viene concesso di continuare la gara. Non viene classificata alla fine, ma rimane tra quei 30 che sono riusciti a finire quei lunghi e tremendi 3600 chilometri del Giro d'Italia. For 20 years I've come to this place. Alfonsina ha ottenuto quello che voleva, non gareggerà più al Giro. Ma correrà ancora, e molto, e vincerà 36 gare contro dei colleghi maschi, entrando a pieno titolo nella storia del ciclismo come forse nessuna donna riuscirà più a fare. Al termine della sua carriera, naturalmente, apre un negozio di riparazioni di biciclette a Milano, un negozio frequentato anche da Coppi e dal suo mitico massaggiatore Cavanna. Il cuore di Alfonsina Strada cede a 69 anni nel 1959 per una beffa del destino, ancora facendo qualcosa di più collegabile ai maschi che alle donne, perché muore mentre tenta di riavviare la sua moto Guzzi 500. Come vedete, una storia condotta sempre correndo e misurandosi con gli altri. La storia di Alfonsina e la bici. Oh, Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno e Dodo Chipinti.